Non ci prendiamo mai sul serio, come i messaggi nello spam. Non è che se non piango sono un alieno. Oggi proprio non mi va. Forse a 20 anni dovrei sapere più cose. O voglio saperne troppe. Ieri mi chiedevo se la vita da adulti e avere dei dubbi, ma tenerli per me. Ah, ho sognato che eri tu la mia città. Senza clacson, senza velocità. Ma non si sa mai, metti che oggi vinciamo alla SNAI. Che tolgono Sanremo alla RAI. Metti che ci distraggono e cadiamo, che mi lasci un attimo la mano e poi. Questa notte brucerà. Metti che domani te ne vai. Ombre nascondono i dettagli sui tetti dei palazzi. Solo due gatti randagi che si riempiono di graffi e fanno a pezzi il silenzio. E tu dormi che è presto e non si vede.